La situazione da ieri ha assunto un contorno un attimo più definito perché c'è stata la riunione del governo federale con invece i governi dei diversi Länder che compongono la Germania e si è deciso finalmente per un'azione comune e unica. Fino adesso le misure erano state prese dai Land, ognuno il proprio, quindi con chiusure delle scuole o chiusure dei negozi o quarantene che ognuno decideva per proprio conto a seconda della propria situazione. Invece da ieri c'è questo decalogo che riguarda tutti quanti, che prevede misure restrittive in parte simili a quelle che sono state adottate anche in Italia. Si conferma la chiusura delle scuole che era già stata decisa comunque praticamente in tutta la Germania, si conferma però anche la chiusura di pub, discoteche, tutti i luoghi di aggregazione che non servono cibo. I ristoranti invece possono restare aperti e come in Italia è stata presa questa misura che li dà aperti soltanto fino alle 18, dalle 6 di mattina alle 18. Restano aperti i supermercati, restano aperte le farmacie, restano aperti i parrucchieri, le tintorie, la lavanderia, cosa che a noi può sembrare un pochino più buffa perché non li terremo magari i parrucchieri dentro i servizi essenziali. Per i tedeschi sono servizi essenziali. È stato un meccanismo che fino adesso ha tenuto la vendita tedesca in un determinato modo. Si potrà aprire di domenica. In Germania è vietata l'apertura domenicale dei negozi, è concessa 4 domeniche in un anno in genere nei Länder, tranne a Berlino dove sono 8 domeniche. Questa volta invece si parla proprio della possibilità di lasciare aperti per favorire anche l'approvvigionamento delle merci. Vengono chiusi i bordelli e tutti i luoghi di prostituzione, vengono vietate le visite negli ospedali, o meglio, viene consigliato negli ospedali di non fare visita ai parenti, sicuramente non farla portandosi appresso ragazzini di meno di 16 anni. Vengono chiusi i parchi giochi per i bambini nei parchi pubblici che qui sono diffusissimi, lo ha spiegato poi la Merkel in conferenza stampa, è inutile chiudere le scuole e gli asili per evitare la propagazione se poi mamme e bambini si ritrovano al parco, allora a quel punto tanto vale che stanno a scuola. Per quello che riguarda le merci, la notizia di questa mattina, la Lufthansa sta pensando a un ponte aereo per portare le merci, quindi di approvvigionare in maniera più rapida utilizzando gli aeromobili al posto dei treni. Sulla situazione dei treni, vengono cancellati moltissimi treni regionali, un aspetto importante è che non saranno più effettuati i controlli dei biglietti sui treni per evitare di mettere a rischio i controllori, ma con loro anche i passeggeri che si troverebbero in stretto contatto. Le misure più importanti, quelle che più aspettavano invece i tedeschi, sono le misure economiche. Resta ancora tutto quanto aperto, le fabbriche di automobili non hanno ancora chiuso, adesso stanno dando dei giorni ai propri lavoratori per riuscire a sistemare la questione figli. Chiuse le scuole, hanno bisogno di capire un attimo come faranno i figli dei dipendenti e quindi si chiude per un giorno soltanto a scaglioni le varie fabbriche in modo da permettere di organizzare questo, ma non si parla ancora di fermare la produzione, tranne la Volkswagen che ha annunciato che venerdì sarà l'ultimo turno di lavoro, non in tutta la filiera della Volkswagen, ma in alcune delle fabbriche, non sono state specificate quali. Però sono stati annunciati tantissimi interventi da un punto di vista economico, si parla di moltissimi miliardi sia a livello federale, quindi il governo centrale, sia i governi dei singoli Länder, ognuno per quello che riguarda quelle cose che ritiene fondamentali. La Baviera ha messo 10 miliardi di euro sulla situazione economica. Vengono comunque concessi crediti alle imprese, viene allargato il fondo di aiuti che vengono dati dallo Stato con garanzie maggiori, questa volta da parte dello Stato. È stata concessa la cassa integrazione anche alle aziende che rischiano di licenziare il 10% della propria forza lavoro. Fino adesso la cassa integrazione in Germania funziona solo per le aziende che licenziano il 30%. Per quanto riguarda invece le reazioni, i comportamenti dei cittadini, si sono visti fenomeni come abbiamo visto in Italia, ma non solo, di migrazione interna per ritornare a casa, nella casa d'origine, o assalti ai supermercati, cose di questo tipo, violazioni delle restrizioni? Allora, le restrizioni in realtà ancora non sono ufficialmente in vigore, da oggi inizia la chiusura dei negozi e dei parchi, per esempio delle piscine. Non ci sono state perché non c'è una chiusura interna ancora, quindi gli assalti al treno non ci sono stati. Al supermercato sì, però, e questo anche da parecchio, curiosamente noto che è una cosa che succede in tutta Europa, manca la carta igienica. Anche qui è stata la prima cosa che è stata presa d'assalto, ma questo già 10 giorni fa, quando ancora non c'era da parte del governo neanche un'attenzione così forte o comunque così mediaticamente forte a questo tema. Cartogenica, pasta passata di pomodoro, ecco, queste sono le cose che nei supermercati ci sono sempre, sempre meno. Il resto la gente, te lo dico dall'osservatorio di Lipsia, che però è una piccola città, se vuoi, siamo gemellati con Bologna, tra le altre cose, noi di Lipsia, sono 600.000 abitanti. Ieri, che era una bellissima giornata di sole, erano davvero tutti nei parchi, che erano pieni di persone assembrate comunque, quindi tutti quanti insieme, che fossero adulti o che fossero bambini. In alcuni punti della Germania ci sono state anche cose un po' paradossali. Domenica intanto si sono svolte le elezioni in Baviera così come erano previste, non sono state assolutamente rinviate, ma c'era una festa sabato, il raduno annuale degli slittini nudi, una cosa che si fa nella Svizzera sassone, è stato mantenuto perché secondo il sindaco l'alcol protegge dal coronavirus e loro ne avrebbero bevute tante, questo per spiegarti anche un po' come il tedesco a volte reagisce. E invece per quanto riguarda i dati più sanitari, l'andamento dell'epidemia in Germania? L'andamento è abbastanza veloce, tra le altre cose, stanno aumentando di molto i casi e tutti quanti negli ultimi giorni probabilmente sì, c'è anche un controllo maggiore. Attualmente i dati sono ancora relativi a ieri, sono 6.012 le persone certificate come infette e 13 sono i morti. La regione più colpita sono il Baden-Württemberg, anche la regione di Stoccarda, quindi il grosso centro automobilistico della Germania, con 1.105 persone infette e 3 decessi. C'è la Baviera con 1.067 infetti e 5 decessi, e quello che è stato fin dall'inizio il più colpito, che è la Renania, con 1.541 persone infette e 5 sono i decessi. Le altre regioni si attestano a cifre abbastanza inferiori, c'è una discrepanza molto forte tra le altre cose nei numeri che vengono dati delle infezioni in Germania, e non dipende dalle misure che sono state prese.